ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. L'ultimo ad ammetterlo, quasi con candore, si chiama Gianni Cretarola. Qui a Roma, confida ai magistrati, nessuno vuole rispecchiare la Calabria. Qui a Roma ognuno vuole vivere in maniera diversa. I PM ascoltano e sorridono, perché quello che questo picciotto d'Indrangheta, cresciuto a Sanremo e finito poi nella capitale, aveva appena enunciato è una delle più rispettate regole di vita. In trasferta ci si può togliere degli sfizi in più repressi in casa propria. I più giovani si concedono così le discoteche, quasi tutti non disdegnano locali alla moda e donne a pagamento. I più audaci fanno poi anche vanto di quelle fantasie che, in tema soprattutto di libertà sessuali, altre città più facilmente consentono di quelle loro d'origine. Se i siciliani non si erano mai fatti tanti problemi su questo e i camorristi sono arrivati pure a seguire in trasferta la propria squadra, sembra che la dolce vita romana stia quasi riuscendo ad irretire con le sue mollezze pure spietati uomini dei clan calabresi, i più duri pure con se stessi, almeno formalmente. Così, quando però si è ventilata l'ipotesi di creare una cellula stabile e formalizzata di 'Ndrangheta all'ombra del cupolone, tutti hanno tirato come il freno. Va bene la 'Ndrangheta, ma tutte quelle altre regole meglio lasciarle a Rosarno, Platì o Africo. La costituzione di un locale qui a Roma potrebbe anche sottostare alle stesse regole della Calabria, agli stessi diktat anche qui a Roma, e nessuno lo vuole questo. Sei anche costretto a sottostare a un'impostazione molto rigida di vita, proprio di vita quotidiana. Qui a Roma invece cerchi di prendere solo quello che di buono ti può dare. E poi fare una vita come un ragazzo normale. Quindi discoteca, ragazze, quello che quant'altro un ragazzo vuol fare. Dottor Renato Cortese, capo della squadra mobile a Roma, dopo essere stato a Reggio Calabria, quindi nella casa madre dell'Ndrangheta, e prima pure a Palermo. Che significano queste dichiarazioni di Gianni Cretarola, collaboratore di giustizia, che tra l'altro vi ha aiutato ad arrivare a 3 arresti? Chiaro che l'uomo di 'Ndrangheta fuori dalla Calabria comunque rimane sempre sottoposto alle stesse regole di Reggio Calabria, della Calabria, perché comunque la casa madre è sempre quella e comunque si è legati al cosiddetto crimine che ha sede ovviamente a Reggio Calabria. Cosa vuole dire quando dice che è un po' vuole essere più libero? Che probabilmente non c'ha quelle regole rigide che può avere un territorio calabrese rispetto al territorio romano, e soprattutto non c'è un rigore netto nel delimitare i territori. Cellule di 'Ndrangheta presente a Roma significa sicuramente presenza di 'Ndrangheta, ma sicuramente non c'è una ripartizione del territorio romano come può essere quello di Reggio Calabria. Questo Cretarola dice: nessuno vuole rispecchiare la Calabria qui a Roma, perché qui a Roma ognuno si vuole prendere i suoi spazi e vivere in maniera diversa, cioè fare un po' più la bella vita. Questo probabilmente sì, anche se tutto sommato è presto per dare una valutazione definitiva anche a questo tipo di dichiarazioni fatte dal collaboratore, che sono un po', come dire, fuori dal contenuto tipicamente penale o criminale della sua collaborazione. Però raccontano un po' di un mondo, no? Perché sappiamo invece quanto rigidi siano anche certi diktat, anche comportamentali calabresi. È stato per tanto tempo a Reggio Calabria e quindi nessuno meglio di lei lo sa. Sì, sicuramente ci sono delle regole così rigide che però sono quotidianamente anche superate e calpestate. Ma quantomeno professate, certo, almeno esatto. I capi, diciamo, poi dei clan, esatto, li professano, li impongono agli altri, però per se stessi le violano, però diciamo che non le ostentano, mentre in qualche modo forse è quello che sembra di percepire dalle parole di questo collaboratore quando dice proprio, insomma, nero su bianco, che diciamo il fatto della costituzione di un locale a Roma poteva voler dire anche sottostare alle stesse regole della Calabria, e qui a Roma nessuno li vuole, leggo dal verbale. Quindi in qualche modo come se si volessero conservare una maggiore libertà, almeno di vita quotidiana. Probabilmente c'era questo nelle loro intenzioni, ma non è detto che poi concretamente questo avvenisse. Che tenga presente che comunque sia, se una cellula di 'Ndrangheta viene riprodotta in territori lontani dalla Calabria, sicuramente comunque le regole sono sempre quelle calabresi, e anche l'esperienza, come lei ricorderà, dell'operazione crimine fatta, hanno testimoniato anche questo, che se qualcuno vuole dissociarsi o discostarsi da quelle che sono le linee della casa madre calabrese, comunque viene sanzionato dalla stessa organizzazione criminale, quindi ci sono stati anche omicidi. Certo, viene punito anche con la morte, però forse non sulle regole fondamentali, ma semplicemente forse, se sono vere queste parole che Cretarola racconta, nella maggiore libertà anche di certi comportamenti, diciamo, non avere una struttura più rigida a Roma, o semplicemente il fatto stesso di stare più lontani da una maggiore libertà. Ci confrontiamo con una sorta di nuove generazioni delle leve dell'Andrangheta, comunque portano esperienze diverse rispetto ai boss di una certa generazione legati ancora alla tradizione calabrese. E secondo lei l'arrivo di queste nuove generazioni, anche con delle richieste quindi anche di tipo differente, in qualche modo li rende anche per certi versi più vulnerabili? Sì, sicuramente sì, un po' li rende più vulnerabili il fatto che sono comunque spesso ragazzi con età giovane, quindi comunque anche a livello comportamentale tengono uno stile di vita, anche dal nostro punto di vista investigativo, anche più aggredibile. Però dall'altra, comunque, come vede, nonostante siano giovani e legati a stili di vita diversi nel cuore di Roma, comunque abbiamo trovato traccia di un antico rito di affiliazione all'Andrangheta. Che codice era quello che copriva questo giuramento criptato degli affiliati all'Andrangheta, che avete trovato dove? Questo codice, diciamo, è stato trovato nelle carte, appunto, durante una perquisizione fatta allo stesso Cretarola, con una scrittura di difficile comprensione, perché era appunto criptata, con un codice che poi i ragazzi della mobile di Roma sono riusciti con tanta pazienza a decifrare, decodificare, ed è venuto fuori questo rito antichissimo di affiliazione che gli adepti che entrano appunto nell'organizzazione devono recitare al capo della famiglia, al capo della locale, che appunto nelle cui mani viene appunto rimesso questo rito e quindi l'ingresso nella società di 'Ndrangheta. Sembra un misto di cirillico, arabo e quasi anche degli ideogrammi cinesi. Che cosa è venuto fuori su questo codice? E se lo saranno inventati loro, o è qualcosa che è stato suggerito da qualcun altro? Semplicemente un codice organizzato dallo stesso Cretarola per nascondere il rito. Non c'è nessuna, diciamo, possibilità che le mollezze romane, diciamo così, possano in qualche modo anche irretire i boss di 'Ndrangheta? Era questo un po' che sembrava anche dalle parole di Cretarola. Mi sembra ancora un po' presto per arrivare a questa conclusione. È vero che Roma, come anche Milano, come anche le capitali europee, dove comunque la 'Ndrangheta è ramificata, sicuramente è una realtà diversa rispetto a Reggio Calabria, piuttosto che a San Luca o a Platì, ma sicuramente siamo lontani da pensare che ci sia un modulo organizzativo diverso dalla casa madre. È la prima volta che è stata, diciamo così, individuata una cellula organizzata a Roma di 'Ndrangheta? Con questa struttura e con queste modalità, assolutamente sì. Vecchi codici, nuovi divertimenti, le regole della casa, le trasgressioni della trasferta. Così ad esempio non disdegnano locali di scambisti a Milano nemmeno i picciotti di uno dei più coriacei clan di 'Ndrangheta, i Pesce di Rosarno, che non è solo il centro ma la mamma, si ricordano l'un l'altro e più alti in grado, ma pure loro a Milano cambiano condotta, anche se poi sul mondo del divertimento i boss finiscono pure per allungare le mire attraverso le società dei buttafuori, come ricostruisce un'inchiesta della DDA. E quando ci sono di mezzo i soldi, tutto poi torna come prima e basta una parola per far ritrattare ad esempio i testimoni, racconta il PM Paolo Storari. Forse per la prima volta, almeno per quanto a mia conoscenza, l'Andrangheta arriva, diciamo così, fino alle porte del Palazzo di Giustizia, perché fornisce, diciamo così, una protezione a 360 gradi anche contro lo Stato, perché questo imprenditore finisce le maglie della giustizia, viene arrestato, si trova in custodia cautelare. Viene svolto il processo, quando sanno chi sono i testimoni che vengono chiamati, i testimoni del Palazzo di Giustizia vengono sostanzialmente avvicinati e avvertiti, attenzione a come vi comportate nel dibattimento. Infatti a dibattimento è tutto un non ricordo. L'estorto non solo si limita a subire, diciamo così, un danno, ma riceve anche un vantaggio, perché nel momento in cui un imprenditore della sicurezza paga loro, non li paga solo perché li difendano, ma li paga anche perché eliminano altri concorrenti del settore, e così viene fatto in effetti. Regole di sempre, divertimenti di oggi, insieme a imperituri codici come quelli teorizzati per iscritto da un imprenditore arrestato nelle indagini romane sul delitto del boss Vincenzo Femia. Il tempo ha dato ragione agli uomini d'onore, si legge in questa sorte di diritto mafioso sequestrato. Quelli di una volta consideravano l'onorata società pari alla sacra famiglia, di conseguenza non come opportunità affaristica, ma come scelta di vita che imponeva regole basate sul principio dell'onorabilità e della fratellanza. Onorabilità che dichiarano a casa propria, impongono sì agli altri, ma violano ripetutamente in trasferta o di nascosto, soprattutto i capi. Ce l'aveva un imprenditore calabrese questa lettera, uno che da anni viveva all'Infernetto a Roma e che girava con passaporto diplomatico in tasca. Lui che nella capitale aveva avuto contatti anche con l'ex cassiere della Magliana, ma che le indicazioni della casa madre calabrese non li scordava mai. Ed è lì che allora andiamo nella seconda parte di A ciascuno il suo, laddove le trasgressioni, almeno ufficialmente, non sono ammesse dall''Ndrangheta. A ciascuno il suo. Quando vanno in trasferta, pure i boss di 'Ndrangheta sono in cerca di emozioni forti e si abbandonano allora ora alle mollezze della dolce vita romana, come ha raccontato nella prima parte di A ciascuno il suo uno degli ultimi collaboratori di giustizia della capitale, oppure quando arrivano a Milano si lasciano andare a notti nel divertimento più sfrenato. Così pure nella sentenza del processo All Inside contro il clan Pesce di Rosarno si trova il racconto dei bagordi notturni di due giovani boss, Francesco e Andrea, che avevano pensato bene, si legge, di entrare in un locale per coppie di scambisti, il nuovo paradiso. Quel che a casa propria non è consentito o al massimo è fatto di nascosto, fuori invece può essere anche ostentato. Là dove ci si confonde meglio, il punto è questo, nota il procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Caffiero De Rao. È evidente che se c'è qualche libertà in più è legata al momento transitorio di partecipazione ad un certo modello di vita diverso. Dico, per esempio, se si frequentassero dei locali notturni, l'esposizione sarebbe proporzionata all'ampiezza del tempo in cui si vive in un modo particolarmente esposto. È chiaro che se per esempio si desse nell'occhio spendendo cifre particolarmente rilevanti, questo determinerebbe un'attenzione anche esterna, e quindi è chiaro che se ciò può avvenire per una sera, non può avvenire sempre, perché una delle prime regole dell''Ndrangheta, sia nel luogo in cui opera che fuori, è quella di adeguarsi a determinati contesti abitativi e di vita sociale, proprio al fine di dare meno possibile evidenza alla loro presenza. Le regole sono innanzitutto quelle di mantenere una vita apparentemente morigerata, una vita apparentemente consona addirittura ai dettami della Chiesa Cattolica. Ciascuno 'ndranghetista, nel fare confusione voluta fra quelli che sono i precetti della Chiesa e i propri comportamenti, finisce per voler apparire come un osservante della religione. Non solo, diciamo, c'è un richiamo a quel giuramento iniziatico fatto sulla falsariga dei 10 comandamenti, ma che prevede anche, ad esempio, di non guardare le mogli degli altri, per dire. Bisogna amare e ossequiare coloro che fanno parte della famiglia di 'Ndrangheta più del padre e della madre. All'estero, se si muovono in trasferta, sono in grado di darsi alla bella vita, come dicevo, per una sera, ma non come modello di vita dissoluto, perché quello sarebbe invece espressione innanzitutto di un'acquisizione comportamentale totalmente in contrasto con le proprie regole, ma nello stesso momento, per non dare, come dire, segnali chiari della propria presenza sul territorio e quindi per non allarmare, anche dal punto di vista della unità familiare. Molti dei capi della 'Ndrangheta apparentemente rispettano l'unità familiare, hanno poi donne con le quali passano anche momenti della giornata o nel corso della settimana, le incontrano comportamenti che in modo nascosto vengono tenuti da molti. E infatti, ad esempio, per restare al clan pesce di cui stavamo parlando, uno dei casi più noti è anche quello di uno dei più potenti ecoboss, che durante la latitanza riceveva non poche donne che proprio anche gli si offrivano, ma questo era ancora un altro discorso, perché questo avviene nell'ambito della clandestinità, non è quello che comunque ufficialmente deve apparire, non è quello il messaggio che il clan vuole mandare alla gente che abita sul suo territorio. Quali danni, ad esempio, potrebbe provocare in un territorio come quello di Rosarno o anche proprio nei feudi più intensi, di presenza malavitosa dell'andrangheta, la conoscenza del fatto di un episodio, per restare ancora alla sentenza All Inside, laddove si parla che alcuni dei rampolli della famiglia Pesce, ad esempio, vengono coinvolti in un rischio di rissa a Milano, ma al di là di questo si viene a sapere che erano andati a divertirsi in un locale per coppie di scambisti. Una vicenda di questo tipo danneggia la reputazione dei boss a casa propria? C'è una differenza chiarissima che è stata riscontrata in numerose occasioni. Finisce per essere sempre perdonato e ammesso, o addirittura non visto, quando protagonista è un capo e quindi un personaggio di grande rilievo. È invece oggetto di rimprovero o addirittura di sanzione se invece si tratta di appartenenti ai livelli più bassi dell'organizzazione. Diciamo che le regole valgono per coloro che si trovano ai livelli più bassi, non per i capi. In questo, nello stile di vita, soprattutto privato, i boss di 'ndrangheta si differenziano molto dai picciotti di Cosa Nostra e ancor di più dai camorristi, la cui corsa al potere è accompagnata dall'ostentazione dei suoi segni più plateali, in casa come in trasferta. Una differenza subito balzata all'occhio al procuratore Caffiero, per anni impegnato a Napoli contro i casalesi. La camorra tende invece ad evidenziare la sua ricchezza in modo anche molto vistoso. La camorra tende sempre a dare dimostrazione del proprio potere in modo da rendersi riconoscibile. È più spudorato il modo attraverso il quale si muove la camorra in queste forme esterne. C'è qualche dettaglio anche secondario che da questo punto di vista le viene in mente, in qualche modo di questa ostentazione anche comportamentale, al di là delle dinamiche più strettamente criminali che i boss camorristi hanno? Ma penso alle grandi ville che addirittura imitavano Scarface, personaggi dello spettacolo, Scarface, ma penso anche alle Ferrari con le quali viaggiavano, penso a una serie di segni esterni attraverso i quali volevano dimostrare di essere capaci di tutto e potersi sottrarre comunque al contrasto giudiziario, ma anche all'interno, per la verità, almeno ai livelli più alti, i capi erano sciolti da determinate regole. Per esempio a Casal di Principe vi era il divieto di spacciare droga, con la conseguenza che non si poteva nemmeno consumare, mentre poi i primi a consumarla erano proprio i capi. Questa ancora dimostrazione che le regole valgono per i gradi più bassi e non invece per i capi. E se i boss napoletani arrivano fino a seguire in trasferta la propria squadra di calcio, viaggia e non limita né incontri né lussi pure l'ultimo super latitante d'eccezione di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano, che trama contro il PM che più gli dà la caccia, Teresa Principato. È un latitante un po' diverso, è un latitante che spende molto, che non vuole rinunciare al suo standard di vita. Ad una vita molto agiata, che pur agendo nel segno di una tradizione molto, molto rigida, tuttavia non rinuncia sicuramente ai vantaggi della modernità. Intanto è un latitante che non si rifugia in campagna, ma è un latitante che parte, che viaggia spesso. È un latitante che ama vestire bene, è un latitante che ha molte donne, donne in varie parti d'Italia e anche in altri paesi, e anche le donne hanno il loro peso. Nei piaceri della trasferta, pure per gli uomini d'onore siciliani, molto aveva detto e raccontato pure un vecchio pentito di mafia come Giuseppe Grado. La Milano da bere luccicava ai loro occhi più di Palermo con le sue regole. E chissà se alla fine, come sentivamo già dagli investigatori, non siano ancora una volta le tentazioni dei vizi a rendere più vulnerabile pure chi è cresciuto nell'osservanza più rigida delle regole. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, e sul blog appunto Storiacce. Mentre su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!